Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Già prima dell'estate abbiamo parlato dei cantieri di carità e giustizia, un progetto voluto dal Vescovo Claudio innanzitutto per capire quali sono le realtà che nel territorio urbano di Padova si occupano di carità. Da questo punto è emersa una prima indagine, c'è stata una tappa di presentazione, i primi risultati del progetto in occasione del tradizionale incontro con le categorie economiche promosso da Lucid Padova. Sono state presentate appunto le linee principali di questo progetto. Noi vi proporremo più avanti nelle prossime settimane in una serata l'intervento integrale di quella mattinata. Adesso un breve estratto con la voce del vicario episcopale per il territorio, Don Marco Cagol. Ecco, la prima cosa che dico è che il Vescovo e come Chiesa, come diocesi, ci teniamo molto a questo pensiero, ecco, a questo progetto che abbiamo chiamato così Cantieri di Carità e Giustizia, che probabilmente semplicemente anche dà come dire spinta a ciò che la città già da sempre esprime. Ecco, e credo che questo anche mappatura, ecco, che è stata fatta, e questo anche tentativo di attribuire un valore, ecco, anche economico, anche in termini di ore, a questo modo anche di quantificare, possa essere veramente interessante. E noi vorremmo appunto alla fine, ai primi di febbraio, poi dare in modo più organico questi dati. Vorrebbe essere anche un regalo al futuro sindaco, ecco, di avere una mappatura e veramente contezza anche scientifica del valore, ecco, economico, sociale e reale di tutto quello che viene fatto per il contrasto alla povertà. Ecco, il Vescovo avrebbe voluto così ribadire una cosa che aveva detto anche l'anno scorso, ecco, quando è venuto qui, era anche appena arrivato in città, però aveva già enunciato in questa sede i due fuochi, ecco, le due priorità a cui voleva guardare con attenzione entrando in questo tessuto. Il primo era i giovani. Oggi è venuto fuori qualcosina sui giovani, però ecco, penso che la preoccupazione verso i giovani debba essere una preoccupazione di questa città e anche di tutta la società. Qualche tempo fa abbiamo fatto in Facoltà Teologica un convegno che abbiamo intitolato Di generazione in generazione verso la città futura, e insomma è emerso con evidenza che probabilmente oggi i veri, diciamo, a rischio di povertà sono i giovani, e questo ci fa bene, ecco, ridircelo e dircelo. E era presente anche il presidente dell'INPS, sicuramente ha fatto un quadro anche molto puntuale, dicendo che non ha futuro una società che continua a investire su chi ha smesso di lavorare e non su chi invece inizia a lavorare. Ecco, per noi questo rimane un aspetto prioritario. E ecco, e forse qui il Vescovo era stato colpito e l'avrebbe detto, perché lo trovo nell'appunto, probabilmente proprio anche quando noi facciamo una narrazione della nostra società, e anche quando, faccio anche qui un passaggio, diciamo così, se volete, impropriamente elettorale, ma quando vogliamo convincere le nostre comunità a dare il consenso per amministrarle e governarle, dovremmo anche convincere, diciamo, l'elettore di una certa età che anche a lui convengono scelte e politiche che favoriscono i giovani, che è proprio un fattore importante, che non vale la pena di scegliere solo politiche che favoriscono, diciamo, il momento nel quale magari mi trovo di una certa età, ma che conviene a tutti che una città, una comunità, una nazione, un continente, il mondo intero, ecco, guardi ai giovani. Poi l'altra priorità era evidentemente quella dei poveri, e io ribadisco, ecco, l'intenzione, il desiderio della diocesi e del vescovo di coinvolgere tutti per avere uno sguardo privilegiato verso i poveri, verso gli ultimi. E ribadiamo la convinzione, il Vescovo lo avrebbe detto, che è il lavoro che dà dignità ed è il vero contrasto alla povertà, e dunque lo sviluppo economico, e dunque tutto quello che è anche il sistema, ecco, che qui rappresentato sta facendo. È chiaro che è questo quello che permette l'uscita dalla povertà, e però su questo è chiaro che la domanda importante: ma che cosa darà lavoro e dignità ai nostri concittadini nei prossimi 20 anni? Ecco, questa è una domanda, di che cosa vivranno, ecco. E tuttavia, mentre ribadiamo, ecco, questa convinzione profonda, ci fa bene però tenere sempre lo sguardo fisso sui poveri, su chi non ce la fa. Anzi, ci fa ancora meglio provare a metterci nei loro panni e avere il loro punto di vista. Quello degli ultimi, quello dei poveri, è un sapere che fa bene, non uso a caso la parola sapere, è un sapere che fa bene ad ogni altro sapere e competenza. La dimostrazione, cioè, un'ora di ascolto degli ultimi ha prodotto 6 ore di aiuto ad altri. Ecco, questo è veramente, come dire, è un paradigma di modo di vedere, di modo di pensare. Cioè, c'è un sapere negli ultimi, c'è un punto di vista che è indispensabile, è un punto di vista decisivo per costruire uno sviluppo buono ed equo. Ecco, vorremmo che nessuno, anche coloro che pensano allo sviluppo, al futuro, all'innovazione, all'internazionalizzazione della nostra città, ecco, nessuno sentisse estraneo questo punto di vista. Vorremmo che tutti potessero conoscere e incontrare i poveri della città, che tutti conoscessimo quanto rende ricca la città il lavoro di chi sta con i poveri, ricca anche in termini economici. Non serve che ripeta, anche se il Vescovo l'aveva puntato questo discorso, che il problema non è la beneficenza o l'elemosina, ma il problema è la costruzione di un circuito di relazione. È la relazione col povero che ti fa scoprire che lì c'è una ricchezza che va a beneficio di tutta la città. Mi piace, perché se l'era appuntato il Vescovo, cito un passaggio di Papa Francesco che potrebbe essere scolpito, ecco, forse come icona di questa mattinata. Nell'Evangelii Gaudium, che comunque è un documento subito precedente, lui dice così: quando la società locale, nazionale o mondiale abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell'ordine, né di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità. Ciò non accade soltanto perché l'inequità provoca la reazione violenta di quanti sono esclusi dal sistema. Perché potremmo dire: ci conviene perché sennò ci ammazzano, ecco, no, o perché sono minacciosi. Ciò non avviene soltanto, però, dice il Papa, perché l'inequità provoca la reazione violenta di quanti sono esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice. Come il bene tende a comunicarsi, il male a cui si acconsente, e qui si capisce che per il Papa l'inequità è un male, il male a cui si acconsente, cioè l'ingiustizia, tende ad espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico e sociale, per quanto solido possa apparire. Se ogni azione ha delle conseguenze, un male annidato nelle strutture di una società contiene sempre un potenziale di dissoluzione e di morte. È un po' una visione ontologica, se volete, no? Cioè, ecco, per cui, ecco, il messaggio che mi pare chiaro è questo, ecco, che potremmo lanciare questa mattinata. Io spero che, anche se è la mia voce, che sia anche un po' il messaggio, è il messaggio che il Vescovo ci lancia. Capire questo in profondità costruisce una comunità più coesa. La voce di Don Marco Cago, il vicario episcopale per il territorio.